Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Hola. Bene, ecco. Quindi, allora, Kappa, io... dovevi cominciare tu. Cosa? Ti avevo mandato gli appunti via mail. No, ma scusa, ho avuto un problema con la mail. Il problema con la mail? Non ma che scusa è? Cioè, no, devi dettagliare di più. Perché che problema hai avuto? E non me le vede più le mail. Ho ma perso come? Le tu mail. Se clicchi invia, ricevi. Vabbè, no, ma perché siccome sono stato malato l'altro vabbè, giorno. Ma queste sono le scuse proprio che usano i bambini quando non fanno i compiti. Vabbè, sono anche le scuse. Falli tu i compiti, io li ho sempre copiati da te. Cos'è sta novità che devo farli io? E stavolta devi farli tu, ma insomma, sempre essere così in spalla a me per tutto quello che riguarda il dovere, il senso del dovere. Qui all'asilo tu perdi troppo ma tempo. Ma basta inventarsi i bambini. Una scusa e tutto infatti, passa, infatti. No? Fai come i bambini ciclisti. Hai sentito l'ultimo caso, quello di Contador, ho sentito. Che ha vinto il Tour di Francia, sembrava proprio l'alfiere del ciclismo pulito. L'han beccato positivo al clenbuterolo, che è un farmaco che stimola il sistema nervoso centrale e rientra nella categoria dei beta 2 agonisti. Ma non è vero, lui ha detto che ha mangiato un filetto avariato e che quindi cosa ridi? Cosa ridi? Sarà mica il primo che si inventa ste cose. Vabbè, sentiamolo poverino mentre racconta questa scusa in diretta televisiva. Sono un caso di contaminazione alimentaria e la quale io sono la vittima. Ecco. Contaminazione alimentaria. È uguale della qual, della qual non credo. Io sono la vittima. Sì, la vittima. Però i ciclisti con queste scuse hanno veramente rotto. Dai, il lituano Rumsas aveva l'auto piena di medicine al tour e gli hanno detto: cos'è questa cosa? Lui ha detto: era per mia suocera. Che sua suocera? Era una suocera malata che abitava in Lituania. Hai capito? Vabbè, dai. Poi Van der Broeke, il belga, Van der Broeke ha detto che erano per un cane asmatico le medicine. Anche lui ha trovato le medicine. Tito, vuoi la pastiglia? Ma no, ma Tito, poverino, non doppiamolo Tito. E Ulrich invece? Chi è? Beh, Ulrich è un ciclista che l'hanno trovato positivo al doping. Lui ha detto, no, ma io sono andato in discoteca, ho incontrato una ragazza, mi ha dato due paste, me ne sono calate. Non pensavo che poi non potessi correre, hai capito? Ah, sì? Sì, quello proprio doping dichiarato. Però diceva, io non credevo ma che rientrasse nella tabella del doping del ciclismo. Ma infatti non credevo neanch'io. Ah sì, eh? E Hamilton allora? Lui addirittura che aveva fatto delle trasfusioni. E sai che le trasfusioni si usano proprio per nascondere le tracce di doping. No, non lo so. Lui ha detto che la trasfusione era in realtà avvenuta ai tempi di quando era ancora nella pancia di sua madre, nell'utero di sua madre, aveva un gemello che poi è morto. Questa è bella. Questa sì. Questa e quindi le trasfusioni le hanno fatte all'epoca e ancora lui porta le tracce di quella trasfusione, aveva circa 35 anni. Questa è la numero uno fino adesso. Non è il numero uno, è il belga De Klerk che teneva tutti gli appunti delle dosi che doveva prendere di farmaci. Quando gliel'hanno trovate lui ha detto, no ma sto scrivendo un romanzo ambientato nel doping del ciclismo e quindi c'era mi sono un mio amico preso... che andava prostitute e si scriveva sul quadernino i voti che assegnava le varie prostitute. Ma quando gliel'ha trovato sua mamma non ha avuto la fantasia di De Klerk. Beh, però il migliore di tutti è Danilo Di Luca, vincitore del Giro d'Italia nel 2007. Lui non ha trovato scuse. Vero. Cioè, noi gli hanno detto tu sei dopato e lui ha detto non è vero. Non è vero. È stato squalificato 2 anni dal Tribunale Nazionale Antidoping, multato di 280.000 euro. Però non è vero. Però non è vero. Sentiamolo. Perché poi ho sempre detto che quel farmaco io non l'ho fatto e sto lottando affinché la verità proprio venga fuori. La verità, Danilo. Gli è un po' scappata, Il farmaco me lo sono fatto, lì la terminologia. Uno il farmaco lo prende, scusami, che se lo fa. Se no sei una casa farmaceutica, è vero. No, se no sei un tossico, quelli che si fanno, no, sai Drago. Sai che anche i bambini i ciclisti, non quelli professionisti, quelli che vedi la domenica, sei tutti fieri, vestiti proprio come quelli del Tour de France, con il caschetto, la bicicletta super tecnologica, che ti guardano un po' male quando li superi, eccetera. Anche quelli sono strafatti, Anche quelli usano il doping, perché devono avere delle prestazioni superiori a quelle, non so, dell'amico col quale vanno sempre a fare le corse. E cosa prendono? E loro mangiano gran bistecche avariate come Contador. Adesso la nuova mania è quella lì. E il contorno? Contorno clenbuterolo. Ma che bella bicicletta! Fortunato, te beato, che regalo straordinario. Che peccato che funzioni all'incontrario. Tu pedali qui davanti, ti mostri, ti vanti, ma un idiota che va a piedi non lo vedi, mentre ora tutto il mondo guarda e aspetta un idiota su una bella bicicletta. Bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle, I want to ride. Kappa? Ma dove è andato adesso? Kappa! Oh, ma dove sei? Ti sto aspettando! Momento. Stavo facendo la pipì, anche tu. Bravo, tu fai la pipì, sprecala. Dovrei trattenerla. Bravo. La pipì sai che crea dei gravi rischi all'ecosistema quando va a finire nelle reti fognarie. Ma cosa stai dicendo? Lo sai che 7 miliardi di abitanti di questo pianeta producono ogni giorno 10 miliardi di litri di pipì? Sai quante piscine olimpioniche riempi con tutta quella pipì? 4.000! No. Vabbè, ma 4.000. Ci fai il bagno tu in quelle piscine. Fai 4.000 olimpiadi, capito? Moltiplica per 4 anni, sì. Ne hai per un giorno solo, Un giorno solo. E la pipì in realtà serve tantissimo. Stanno anche pensando di usarla come combustibile. Perché se tu separi le molecole di idrogeno e di ossigeno dalla pipì, puoi produrre energia. Ma certo. Vabbè, falla tu, Drago. Io vado a farla in bagno, scusami. Bisognerebbe... Dove dovrei farla? Nella bottiglietta? Bisognerebbe trattenerla. Trattenerla per sempre. Ma non trattenerla tu. Bisognerebbe metterla da qualche parte. Il problema è infatti lo stoccaggio. Gli scienziati che stanno studiando la pipì come combustibile, stanno pensando, sicuramente la pipì degli animali andrebbe benissimo, le mandrie di mucche. Come facciamo a convincere una mucca a fare la pipì in un contenitore piuttosto che in mezzo all'erba? Non lo so, infatti. Stessa cosa, come fai a convincere un essere umano a fare la pipì in un contenitore piuttosto che nel suo solito water, queste usanze, insomma, ma che cosa, ormai sono usanze? Ma vabbè, per fortuna. E invece qui all'asilo è il posto ideale per raccogliere la pipì. Ma cosa fai? Sprizzi i pannolini? Ma no, cosa stai dicendo? Tutti questi bambini, ma sai quanta pipì fanno? La fanno nei pannolini, ma bisognerebbe insegnargli a farla in un contenitore, così la teniamo, poi è pipì pulita quella dei bambini, mica come la tua, Ma cosa vuoi piena dire? Di vizi sei tu. Ma cosa vuoi dire? Vabbè, fumi, bevi, capirai che pipì hai, anzi. Vuoi esaminarla? Corrosiva, no? Vuoi esaminarla? Te la faccio esaminare. No, assaggia. No, ma vai via con questa cosa. Assaggia? Vostro figlio deve entrare in polizia ma ha un brutto vizio. Dovete rinnovare la patente ma avete un brutto vizio. Vostro padre vi controlla da vicino perché avete un brutto vizio. Avete un brutto vizio ma volete far credere che non avete alcun brutto vizio? La risposta è Pissiolindo. 30.000 donatori sani in tutta Europa. Equip medica specializzata. Pratico contenitore in PVC. Pissiolindo è urina di bambino garantita pulita. Nessuno potrà più contestarvi di avere quel brutto vizio. E non dimenticate che Pissiolindo è anche una dissetante bevanda in caso di sciopero della fame e della sete. Pissiolindo. Vabbè, Kappa, giovedì. Giovedì andiamo a casa. Come andiamo a casa? Andiamo a casa, Drago. Finito. Fra un po' comincia anni zero. Ma come fra un po'? È stasera. Stasera, vabbè, ma bisogna mettersi lì, prepararsi e caricarsi. Perché poi caricarsi, quello lì sì. È il posto giusto dove sfogare per litigare, tutti gli istinti bestiali. Per urlare, ma sì. Ma certo, l'urlo fa club, bene. Sì. Guarda che l'urlo fa bene. Chiedilo a Munch. Ma no, Munch, chiedilo semmai a Ginsberg. O addirittura, guarda, chiedilo al bambino Santoro. L'urlo è liberatorio, è fondamentale. Viva l'urlo. Ecco, delle volte l'urlo serve per non morire. Ecco. E qualche volta, ad anno zero, quell'urlo lo sento. Anni zero. E questo comunque è una responsabilità che io avverto. Cosa? Che quell'urlo si senta. Hai capito? Si deve sentire. Fuori la voce. Uno, due, tre. Asilo entra di 24.it. Chiedo